Ok, allora siamo qui alla tre giorni di invasioni urbane a Taurianova ad opera dei Mammalucchi, la Mammalucco Onlus che da anni si sbatte per organizzare questo evento in un paese alquanto difficile, molto difficile come la Sicilia, il paese di provenienza degli Albano Power che abbiamo qui a transizione di fase questa sera. Prima di tutto una breve introduzione, potete dire qualsiasi cosa su cosa siete, su cosa siete stati, su cosa sarete, senza alcun vincolo di niente. Cosa saremo non lo so. Partiamo da domandone. Siamo in 5, Lorenzo, Peppe, Toti, Carlo e Andrea. Il disco l'abbiamo registrato io e Toti principalmente, che è il batterista, che ha pure uno studio di registrazione. Anche di Siracusa. Fra Floridi e Siracusa. Il disco l'abbiamo registrato in quasi un anno di lavoro. Siamo in Sicilia, dove c'è un forte legame. Sicilia-Calabria, più o meno le dinamiche. Si distanziano 3 chilometri, qui si chiama in un altro modo, ma siamo lì. Più o meno è la stessa cosa. Quindi non ho molto da raccontare. In Sicilia c'è pochissimo movimento musicale. Forse a Catania. Catania, sì, più negli anni 90, adesso è scalato anche lì. Però è un problema, diciamo, un po' nazionale. Sì. No, l'unico problema, cioè noi abbiamo un problema in più, penso, anche rispetto a voi, perché a livello logistico, no, la Sicilia, essendo un'isola, è alquanto un po' più complicato, staccata dal resto. Sì. Per ora sì, costruiranno il ponte di Bologna. Sì, dove il ponte. Arriveremo a Bologna in circa 2-3 ore. Esatto. O meglio, arriveremo a Messina a 2:20. E poi ce la saranno Reggio Calabria, che è un bijou, è un gioiello. Comunque, no, io sono stato molto colpito dal fatto che principalmente vi dedicate molto alle cover, e questo secondo me è un lato positivissimo, nel senso che spesso quando si sente parlare di cover si storce un po' il naso, invece nel vostro caso una cosa particolare è perché, non so se questa domanda ve l'hanno già fatta, però perché vi siete fissati con il Natale? È un tema ricorrente sia nelle cover sia in una poetica che ricorre spesso. Ma in realtà abbiamo fatto questi due, il nostro progetto nasce con un EP natalizio. Noi in realtà nasciamo perché volevamo fare un regalo ai nostri amici per Natale, non sapevamo che cosa regalare. Abbiamo pensato che registriamo 4 cover natalizie e regaliamo dei CD masterizzati, può essere una cosa carina. E da lì nasce il progetto. E poi ne abbiamo fatto un secondo, già con la nostra etichetta. E quindi un po' adesso ci hanno etichettato col Natale, però in realtà poi Maria Sei il Natale ha poco a che fare. Però tornando al discorso delle cover, ne facciamo anche, credo molto nell'aspetto anche pedagogizzante per fare una cover. Per me molti artisti li ho conosciuti grazie a, che ne so, John Bryan l'ho conosciuto grazie a una cover di Elliott Smith, quindi secondo me facendo le cover può essere uno stimolo in più per l'ascoltatore, no? Per scoprire nuovi gruppi, no? Abbiamo fatto pure una cover di Joy Division per Radio Rai 2, la Deftones, abbiamo fatto un pezzo di Ciampi, cioè siamo anche molto trasversali nella Leonard Cohen per c'è un filo conduttore, cioè io, vabbè, secondo me Ciampi è il primo d'archettone italiano nella storia della musica. Vabbè, Leonard Cohen è stato un influente per un sacco di musica, anche a partire, vabbè, da Elliott Smith. In un vostro verso dite Black Eyed Peas, no grazie, sì, Elliott Smith. È una sorta di filo conduttore, io ci ho visto, soprattutto nella scelta delle cover, ad esempio quella di Ciampi era anch'essa Natale 24. Esatto. Qual è la domanda? No, che c'è una sorta di filo conduttore anche nella scelta delle cover. Il filo conduttore credo sia poi l'arrangiamento, no? La veste che poi diamo ai brani. Poi per il resto ci abbia detto anche, no? Non c'è molto in comune. Una sorta di filo d'arte, io ce la vedo tra ci abbia detto. Vabbè, come unico album avete fatto Mariah's Day, prodotto dalla Fortitude Records. Ora con oggi finito il tour che vi ha visto suonare più o meno dove? In tutta Italia. No, questa è la 60ª data quest'anno. A dimostrare che forse in live è rimasta una delle cose inattaccabili, penso, di fruizione musicale. Sì, oggi è l'unica risorsa poi del gruppo A. Sicuramente può dare una spiegazione scientifica. Ecco, la spiegazione scientifica live. La spiegazione scientifica live è sostanzialmente che il gruppo vale veramente, riesce a catturare l'attenzione in un'esibizione. È quello, cioè il rapporto che c'è tra la band e il pubblico è qualcosa di alchemico quasi, no? Quindi live diventa un momento fondamentale per misurarsi e per capire anche che tipo di, vuol dire, che attraverso la risposta del pubblico capisce effettivamente se il tuo messaggio arriva o meno. Questa è la prima cosa, ma poi la cosa forse più importante è che i dischi, lo sappiamo, si vendono poco. Si vendono poco perché purtroppo attraverso questo filtro, no, che sono i media, internet, poco si comprende quello che è il valore del gruppo, delle band. Quindi il live ti consente anche di vendere le tue copie, perché effettivamente attraverso la tua esibizione fai capire al pubblico quello che sei veramente, ma non dal punto di vista veramente tecnico, ma come dicevo prima, crei quell'alchimia, allora la risposta e l'acquisto del brano. E poi comunque il live consente alla band di creare quell'armonia, di cementificare ancora di più i rapporti che alla base ogni gruppo deve avere. Quindi credo che il live sia la cosa fondamentale per il gruppo. Del resto, negli anni 50, 60, 70, i gruppi vivevano di live. Il live era imprescindibile, senza l'esibizione il gruppo non esisteva. Solo che magari il live serviva per poi vendere il disco. Invece oggi è proprio il contrario. Oggi serve per acchiappare le ragazzine, ma il disco non si lo comprano. Però non ci lamentiamo. C'è la fine, forse siamo l'ultima andata. Insomma, i gruppi che poi fatto il disco lo vendono, penso che già la prossima. Dal prossimo disco stiamo pensando addirittura di non stampare il CD e fare solo il vinile per i pochi appassionati. Se proprio supporto e feticismo, ci porteremo delle pendrive, tutti saranno con i computer portatili piccoli, se passeremo il disco così. Infatti, a 50 centesimi. Basi di stampare. Scaricatevi i dischi. No, ma secondo me si arriverà addirittura ad una situazione in cui veramente pagheremo come le bollette del gas e della luce. Noi pagheremo, secondo me, 3 euro al mese per accedere ad archivi infiniti. Io la vedo così. E poi ovviamente il supporto sarà un qualcosa di pochi. La serie, chi veramente vuole avere questo, tra virgolette, feticismo che molti di noi apprezziamo. Però in quanto a fruizione, io ad esempio mi sono stupito di ragazzini che addirittura si stupivano nel vedere come uno avesse una collezione di MP3, perché addirittura oggi la musica passa attraverso YouTube, i pezzi, il MySpace, e si ferma lì. Quindi secondo me si arriverà ad una sorta di azzeramento totale e si ripartirà da non so cosa. Speriamo il meglio. Al momento la situazione è drammatica, perché ci sono ragazzini pieni, con gli artisti pieni di musica che non ascolteranno mai, anche noi. musica che non si cancellano discografie in un secondo, magari levano il cazzo ne so un disco dei Pink Floyd per fare spazio all'Annata d'Angelo, cioè, potrebbe anche... perché hanno poco spazio, questa la cosa è un po' mi turba, invece comunque il disco c'è una dimensione quasi, è un quadro, no? È una dimensione di ascolto separata da ogni distrazione. Sì. Non so fino a che punto si possa recuperare, io sono sempre andato per album, mai per canzoni. Però è una sorta di fruizione che non so se si potrà recuperare, se avrà delle... Guarda, io ho un'idea, io credo che il compact disc, la nascita del compact disc è in passato la morte, perché in realtà per un periodo è sparito il vinile, ha in qualche modo aiutato le persone a dimenticare il rapporto che si instaura tra l'individuo e il disco in sé, perché il vinile, possedere un vinile, toccarlo, utilizzare la puntina per poi ascoltarlo, creava veramente una magia. Il compact disc ha reso un po' più freddo questo rapporto, e quindi il passaggio poi al supporto l'MP3 sostanzialmente è stato quasi, come dire, un passaggio che ci doveva aspettare. Il ritorno oggi al vinile, infatti, in qualche modo serve probabilmente a ripristinare, no, quello che era il rapporto. Infatti si fanno in tiratura limitata, ma la gente acquista il vinile, anzi si cerca il vinile. In internet, un sacco di persone su internet cercano i vinili delle band, proprio perché ci vuole avere quel rapporto, no? E allora, secondo me, è proprio... probabilmente quel passaggio del compact disc poi in qualche modo ha dato vita a questo vortice, no? Ci ha portato tutti dentro questo vortice. Esattamente, esatto. Secondo me tornerà il CD, sono ottimista. Il CD. È ritornata Eder Parisi e Donatella Rettore, minchia, tornerà anche il CD. Cazzo, magari fra 20 anni, quando meno te l'aspetti. Tornava la cassettina. Io sto vedendo un ritorno al vinile importante, però... Ma ne sono contento. Anche se questo scenario apocalittico, secondo me, si può combattere solamente facendo come avete fatto voi, 60 live, sì. e farsi vedere in questa per maniera. Passione, perché oggi in Italia di musica... Anche perché ci sono un casino di band, di demo che magari spaccano il culo, poi vai a vederli live e cade tutto. Invece secondo me fate bene a sbattervi, anche se ovviamente state in Sicilia, non è come tutti i gruppi del meridione, non è facile sia trovare gli spazi e sia arrivare magari nei posti dove si suona. Però secondo me io la vedo come l'unico baluardo per combattere questa tragedia musicale. Sì, no, sì, è un dramma. Come chiusura, anche perché il tempo è poco, volevo semplicemente chiedervi come vedete la scena, soprattutto musicale non locale, quindi siciliana, ma italiana. Italiana, ovviamente la musica underground, parliamo di Annata d'Angelo, sia come spazi ma anche nelle grandi città, non solo, anche in città come Milano, dove molta gente mi ha detto che la situazione anche lì è alquanto cambiata. Voi che avete girato un po' l'Italia, come vi sembra il mercato musicale e tutto quello che sta un po' intorno? Cioè, qual è il divario che si frappone fra noi e il resto del mondo, dove alla fine sembra che in Inghilterra o negli altri posti la crisi musicale li abbia toccati, ma fino a un certo punto? Guarda, l'Italia è messa veramente male, ma è un problema proprio che parte sia dai gruppi, che rispetto alla Germania, la Germania è Notwist, piuttosto che il Belgio hanno Deus, in Francia hanno gli Eli, Cassius. Potrei continuare con una lista infinita. In Italia, secondo me, ahimè, manca intanto la qualità, c'è pochissima qualità, e mi metto nel calderone, ma per un semplice motivo, perché la gente non ha la possibilità, la serenità di dedicarsi completamente alla musica, perché la situazione sociale è talmente devastata che... Non si fa mai a tempo pieno perché no, non ci si no, campa. Se tu pensi che... gruppi in Belgio se il gruppo, se un gruppo belga viene a fare una tournée in Italia, lo Stato finanzia parte del tour, perché loro esportano cultura estera. Noi qua non ci pagano neanche il traghetto per venire in Calabria, capito? Quindi, in Francia figura di che hanno, tu dimostri che fai un tot di serate l'anno, fai un 30 cascè l'anno, loro ti assicurano, se tu dimostri chiaramente che veramente hai fatto 30 date, ti assicurano loro un minimo mensile di 650 euro, se dicendo un ricorso di riso. Perché tu fai parte del... È un altro mondo. Sì, qua ne puoi fare 60 a 300 euro, tra l'altro. E stai sempre solo. Sì. Quindi non c'è qualità dovuta anche, credo, proprio alla situazione. Partiamo proprio dal welfare state, cioè possiamo fare un discorso lunghissimo, ma non è il caso. Però insomma, secondo me più o meno la situazione è questa. Va bene, una domanda io. Vai, vai. Allora, innanzitutto complimenti, io vi conosco da poco, vi ho ascoltati su MySpace, mi è piaciuta l'atmosfera da foto ingiallita, quasi certe volte malinconica, e niente, sì, questo, volevo farvi i complimenti. E poi la mia domanda voleva essere, ho visto questo video del Live in the Kitchen e volevo sapere un attimo il background di questo video, come curiosità per i nostri ascoltatori. Come gli è venuta l'idea di background? Cosa c'è, sì, l'idea, cosa è successo mentre lo giravate, se c'è qualche aneddoto curioso, come è venuta l'idea anche di usare i suoni dell'atto del cucinare? Allora inizio io, introduco e poi te lo dice Lorenzo. Lorenzo e Tony sono due gran mangioni, anche Andrea, no? Quindi il fatto di utilizzare il cibo è legato sostanzialmente a questa sogno, cosa. Vabbè. E allora, ho detto, vabbè, qual è la nostra passione? Il cibo, ok, utilizziamo il cibo per fare un video. Ora continua Lorenzo. In realtà, base, noi abbiamo fatto pure un libro, ora sembra una cosa... Sì, ah, l'ho visto. Storia dal basso dei cieli. È una raccolta che ho curato io di 25 artisti, nostri amici, scrittori, musicisti, mamme, dottori, no, vero, c'è di tutto. E il prossimo obiettivo è il libro di ricette, la cucina per università. Già sto raccogliendo. Ah, per università. Sì, quindi, ok, eri fuori come mangiare con un galbanino, con solo due ingredienti. Esatto. E non morire. Quindi, questo legame con la cucina ce lo portiamo ormai, io personalmente me lo porto da piccolo. Mi sembrava divertente appunto riproporre un nostro brano, che poi Maria Zei, quello che dà anche il titolo all'album, utilizzando spaghetti, fritture. È andato molto bene, a quanto pare. Da questo lato l'Italia va benissimo. Sì, sì, se noi possiamo esportare mangiate di salsicce. C'è da dire che l'abbiamo fatto con grande passione, perché sapevamo che poi quegli ingredienti li avremmo utilizzati per il pranzo. E effettivamente abbiamo pranzato con quelle cose. Quindi avevamo proprio voglia, no, di tagliare, di cucinare, di friggere. E poi no, ma sostanzialmente è, secondo me è il fatto di dare anche, come dire, dimostrazione che si può fare musica con qualsiasi elemento, e in questo caso alimento, no? Se forse è qualcosa che può avere un suono, una sonorità, che abbiamo utilizzato con degli strumentini, ma la base era quella, no? Creare un'armonia anche con quello che la natura ci offre. Ed è stato divertente, ma anche una prova con noi stessi, ma c'è anche a dire che l'abbiamo fatto lì, non abbiamo fatto prove prima, cioè ci siamo messi lì, abbiamo creato all'interno di quella location quel set, e in presa diretta abbiamo giusto fatto mezza prova, e la persona che si è occupata della regia, Gabriele Galanti, che è un nostro amico, che ha girato, e niente, si è messo lì in presa diretta e noi abbiamo preso. Quindi non è stato nemmeno poi troppo pensato, no? È stato proprio anzi pensato con la pancia, proprio di pancia ci siamo andati, quindi. Se volete aggiungere qualcosa, vabbè, se no salutiamo gli ascoltatori e ringraziamo voi. Loro erano gli Albano Power, vi invitiamo a... Fra un anno. Compratevi, scaricatevi. Scaricatelo, compratelo, fatelo ascoltare quello che è. E niente, ci ribecchiamo con gli Appalusa dopo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ragazzi. Bella.